Hashtag Autotrasporti. Sollecitato da settimane dalle associazioni, l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio è stato fissato. La convocazione per martedì prossimo alle 17. Per i rappresentanti della categoria dell'autotrasporto sarà l'occasione per focalizzare istanze, questioni e argomenti sui quali ruotano le prospettive di sviluppo di un comparto cruciale per l'economia del paese. Ma in questi giorni c'è un'altra notizia sulla quale si concentra l'attenzione del settore. Unatras e Anita hanno disdetto il contratto degli autotrasportatori. La comunicazione è stata inviata ai sindacati e il termine indicato è quello del 31 dicembre prossimo. Oggi al nostro microfono c'è Amedeo Genedani, presidente di Unatras. Abbiamo portato avanti il disdetto del contratto di lavoro per realizzare un nuovo contratto di lavoro del trasporto. Trasporto non escludendo anche la logistica, comunque trasporto in primis con un imprinting trasportistico e con un collaterale anche di logistica, perché bene o male anche le piccole aziende dell'artigianato bene o male fanno logistica. La disdetta del contratto arriva alla vigilia dell'incontro con il ministro Del Rio, al quale chiederete un piano nazionale della logistica che manca ormai da molto tempo. Beh, sicuramente tutto collegato, però in prima battuta abbiamo detto ci mettiamo avanti col contratto di lavoro, anche per richiedere in seconda battuta qualche condizione maggiore in un momento difficile come questo delle imprese. Genedani, la ripresa si sente e sta andando nel verso giusto? Dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio dell'artigianato, un minimo di ripresa c'è e speriamo che vada nel senso giusto come diceva lei, cioè che questo filo porti effettivamente una ripresa. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hashtag Autotrasporti.